Mi spaventa il buio, le moto, le pistole. Non guardo film in cui a un certo punto il cane muore. Sono impacciato, sbaglio i tempi e non capisco le persone. Ma poco fa, mentre aspettavo che iniziasse il mio concerto, mentre scaldavo la voce e provavo questo pezzo, mi sono accorto che qui ci sono tutti tranne te. Crede più nessuno, i miei amici fanno a botte con la mia testa di cazzo che rimugino ogni notte. Chissà se almeno una volta mi hai baciato tu per prima, più che per tenerti il pasto ho messo il cuore in doppia fila. Altri 5 minuti forse li avrei voluti, anche se non ho niente da dirti, niente da dirci. Forse mi ameresti di più senza autotune, senza la musica, trap sotto casa, senza vedere mai più la mia faccia e stoner ogni nota come fanno il karaoke. E se un giorno farò successo, io ti aspetto qui, ti aspetterò. Ancora 5 minuti.